643. Torta di semolino. Latte 1 litro, semolino di grana fine grammi 130, zucchero grammi 130, mandorle dolci con 3 amare grammi 100, burro grammi 20, uova numero 4, raschiatura di un limone, una presa di sale. Sbucciate le mandorle nell'acqua calda e pestatele finissime in un mortaio con tutto lo zucchero che metterete a una cucchiaiata per volta. Cuocete il semolino nel latte e prima di ritirarlo dal fuoco aggiungete il burro e le mandorle, le quali, per essere mescolate allo zucchero, si sciolgono facilmente. Poi salatelo ed aspettate che sia tiepido per unirvi le uova frullate a parte. Versate il composto in una teglia unta di burro, aspersa di pan grattato e di grandezza tale che la torta risulti alta 1,5 dito o al più 2. Mettetela in forno o nel forno da campagna, sformatela di accia e servitela tutta intera o tagliata a mandorle.